Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Capì che era meglio tornare, ma prima di girarmi guardai il mare e il suo orizzonte, che era ancora roseo nella notte scura. Sorrisi incantata a quel tramonto sconosciuto. Mai e poi mai avrei immaginato che quella, un anno dopo, sarebbe diventata casa mia. Buongiorno, mi chiamo Carla, abito nella provincia di Milano, ho una figlia, ho 53 anni, ho fatto tantissimi lavori, ma la mia vera passione è scrivere e il cinema. Io è sin da piccolo che mi sono sempre fatto una domanda riguardo a dove si incontra l'amore della propria vita. Cioè, per il fatto che essendo, quanti siamo nel mondo? 7 miliardi, 7 miliardi e mezzo, Tiziano, più o meno. 7 miliardi mi pare tutti. No, forse 6. Essendo tra i 6 e i 7 miliardi su questa terra, uno si chiede com'è possibile che la mia fidanzata, poi mia moglie, la trovi nella scuola che frequento e quindi nella città in cui vivo, nel paese di fianco al mio, e me la tenga per tutta la vita. È possibile che non ci sia dall'altra parte del mondo una persona non tanto giusta per me, ma un po' più giusta di questa qui che era sotto casa mia? Ecco, sono sempre stato fissato con questa domanda e di fatto non è che ci sia poi particolarmente andato a fondo e non ho mai trovato una risposta. Però mi piace sempre sentire le storie delle persone che incontrano la persona che amano e con cui si sposano, o magari non si sposano, ma semplicemente vivono insieme per il resto della loro vita. La incontrano in un luogo comune, ma quella persona viene da migliaia di chilometri lontano, viene da culture diverse, quasi da epoche, sicuramente non temporali, ma epoche geografiche, culturali, diverse dalla nostra. E la storia di Carla racconta proprio del momento in cui una giovane donna, alla fine degli anni Ottanta, ha incontrato una persona di cui si innamora e che diventerà probabilmente suo marito, e va a conoscere il luogo da cui lui proviene, va a cercare di capire quali sono le radici che hanno reso quella persona la persona che è. Ecco perché oggi si parla di quello. 349-238-6666, altrimenti il profilo Facebook del programma, e visto che è un mercoledì pomeriggio, che di fatto è un venerdì pomeriggio, perché davanti avrete un ponte di 2 giorni, sicuramente avete il computer aperto su Facebook. Se non è così, fatevi un profilo e cliccate su Voi siete qui Radio 24 per mandare la vostra storia. Mi piacerebbe conoscere storie oggi di persone che hanno vissuto una storia simile a quella di Carla, per cui persone che hanno conosciuto le radici, le hanno conosciute a fondo, da vicino, le radici di provenienza del proprio marito o della propria moglie. Se non siete sposati va bene uguale, però dovete essere, cioè, ecco, non valgono i fidanzatini, non valgono quelli che l'ho conosciuto quest'estate. Persone che hanno un rapporto profondo con la persona che amano, che viene dall'Africa, dal Sud America, dall'Est Europa, dal Nord Europa, diciamo in generale Germania, Francia, Spagna, Inghilterra, no, sono un po' troppo occidentali, ci assomigliano un po' troppo. Oddio, che detto così, insomma, i tedeschi e i francesi che ci assomigliano un po' troppo. Però allunghiamo il tiro, andiamo in Romania, andiamo in Turchia, andiamo nel Sudafrica, andiamo, vabbè, insomma, avete capito, andiamo lontano a scoprire le radici dei nostri congiunti. 349-238-6666, oppure Voi siete qui Radio 24. Ho un amico che qualche anno fa, che si è sposato con una ragazza russa, e qualche anno fa è andato a Mosca a conoscere le sue radici. Ho detto: com'è stata, Paolino, shock? No, tutto normale più o meno. Certo, il problema è che non parli la lingua, che non è poco, insomma, se per interloquire con qualcun altro ci deve essere una persona di mezzo, insomma, non è abbastanza, non è per niente facile. Però al di là della lingua, la storia di Carla proprio ti fa percepire, e lo fa molto bene, un mondo, quella roba inafferrabile, impalpabile, che si chiama cultura, che è diversa dalla tua e magari non sai spiegare bene che cos'è, ma sai darne i dettagli, sai dire che odori c'erano nell'aria, o sai dire l'accento che aveva il padre di tuo marito mentre ti parlava, o il sapore del cibo che ti hanno dato da mangiare. 349-238-6666. Questa è una bella storia, è una storia che arriva dall'angolo estremo del Mediterraneo e parla, come spesso succede, d'amore. Quando misi piede per la prima volta nel suo paese, pensai che lui fosse più emozionato di me. Lo leggevo nei suoi occhi che brillavano, nel suo tono di voce più alto del solito, nel suo nervosismo, nell'eccitazione di spiegarmi ogni cosa, di non farmi perdere il minimo particolare. Lui sapeva che io avevo viaggiato abbastanza da non sentirmi in ansia né a disagio. Sapeva anche che avevo conosciuto persone di ogni paese, etnia, religione e che alcune amicizie erano diventate profonde. Gli piaceva la mia disponibilità e la mia apertura, anche se queste due caratteristiche lo preoccupavano un po'. Noleggiammo un'auto e ci dirigemmo subito sull'autostrada che da Lod porta a Cesarea. Lui parlava senza fermarsi e io osservavo quel nastro di strada ben tenuto e organizzato che si snodava tra un paesaggio arido, costellato di verde curato e palazzoni moderni. Edilizia abitativa e industriale esattamente identica a quella di molti altri paesi. Quello che mi colpì immediatamente era che lungo la strada c'erano moltissime fermate d'autobus e ad ogni fermata vedevo soldati e soldatesse, giovani, con i loro zaini ai piedi o sulle spalle, seduti sotto le pensiline o per terra, i visi freschi, abbronzati, le ragazze leggermente truccate. In realtà mi ha colpito non tanto, non mi hanno colpito tanto i giovani, sì, mi ha colpito la loro età, però mi ha colpito la quantità di ragazzi in divisa, perché erano tanti. Erano tanti, a decine, e costituivano la maggioranza dei passeggeri in attesa. Pochi civili, qualche ortodosso e poi questa gioventù in divisa verde, con gli occhi, con gli anfibi, marrone scuro, il fucile in spalla, sorridenti, scherzosi e stanchi. Una ragazza molto bella, con una lunga chioma rossa, si sciolse la coda e si passò una mano tra i capelli, leggermente ondulati. Mi straniva quella dicotomia tra seduzione e divisa militare. Lui notò il mio sguardo e spiegò che erano molto importanti per il paese. Fare il militare costituiva un momento basilare per uomini e donne. Si iniziava subito dopo il liceo. Le ragazze rimanevano per 2 anni e i ragazzi per 3. Immaginai me stessa alla loro età e pensai com'ero, cosa sognavo, cosa progettavo, com'ero ingenua, priva di malizia, gentile. Pensai a cosa avrei fatto se mi avessero dato in mano un fucile e mi avessero mandato a fare marce o di pattuglia o ancora peggio, in guerra. Trasalì quando, quasi giunti nella sua città, vidi il mare sulla sinistra e notai che il paesaggio cambiava e diventava sabbioso, quasi desertico, scendendo dolcemente verso la spiaggia. Parcheggiamo davanti ad una palazzina a 3 piani in cemento color ocra, con grandi verande e piccole finestre chiuse da persiane bianche. Dall'altra parte della strada vi era un piccolo parco pieno di fiori colorati. Non ebbi il tempo di distinguerne il tipo, ma ne sentii immediatamente il profumo di rose. Lui aprì una porta a vetri e mi fece strada per le scale di graniglia. Nell'ingresso incontrammo un vecchio signore, alto e magro, dall'eleganza austera di un'epoca lontana. Si salutarono calorosamente, lui mi presentò e l'anziano signore, inchinandosi leggermente, mi parlò in perfetto inglese. Poi aprì la porta di casa. Lui non fece nemmeno in tempo a suonare. Sua madre e suo padre ci aprirono subito. I visi gioiosi che attendevano l'unico figlio rimasto. Gli occhi colmi di lacrime trattenute a lungo. Per la prima volta dopo molti anni il loro figlio tornava a casa, portando con sé una ragazza. Doveva trattarsi davvero di una faccenda seria, degna della più grande attenzione, dato che la ragazza in questione non era dello stesso paese e neppure della stessa religione. Con molto calore mi fecero accomodare, mi fecero lasciare la valigia all'ingresso. Dissero che mi dovevo riposare. Per la prima volta nella mia vita mi sentii decisamente confusa. Non parlavo ancora bene la loro lingua e questo era per me un grande handicap. Mi sedetti sul divano, quello della sala, e guardai verso la veranda piena di piante. mi accorsi che i vestiti mi si stavano appiccicando addosso per il gran caldo e un'umidità che non avevo mai conosciuto. L'aria era mossa appena da un ventilatore a pala e mandava odori di salmastro, erba, spezie e detergenti. Chiusi gli occhi ed improvviso ebbi la netta sensazione di essere in un luogo che nulla aveva in comune con quelli che avevo visitato. Mi appoggiai meglio al divano e lui mi chiese se andava tutto bene, mentre i suoi genitori mi offrivano da bere. Io accettai volentieri, avrei voluto in realtà spogliarmi e buttarmi sotto una doccia, vestirmi di niente e sedermi all'esterno, ma era impossibile. Ero consapevole che sarei stata sottoposta ad un'attenta analisi dal momento esatto in cui avrei messo piede in quella casa. Dicevo a me stessa che non mi ero mai trovata in difficoltà in nessun luogo, in nessuna casa, ma non era un problema di etichetta, neppure di rispetto per le tradizioni, era quel sottile disagio che ti coglie in compagnia di persone che nutrono enormi aspettative su di te e non sanno se sarai in grado di onorarle. Io mi sono sentita a casa quasi subito. Ero un po' imbarazzata, chiaramente, perché insomma era la prima volta che mettevo piede in questo paese e che conoscevo persone di un'altra cultura e mentalità, quindi ero molto, come posso dire, non sulle mie, ma anche spaventata. Insomma, io ero innamorata di questo ragazzo, per cui non sapevo bene come sarei stata accettata. Lui parlava con sua madre di cose non dette per troppo tempo. Io sedevo di fronte al padre, che mi parlava in inglese. Mangiammo tardi. La cena fu ricca di pietanze che conoscevo. I suoi genitori provenivano dall'est Europa e l'alimentazione non era molto diversa da quella delle mie parti. La birra fresca sbloccò la mia lingua. Diventai più charliera e l'atmosfera si fece semplice e familiare. Dopo cena mi proposero una passeggiata verso il centro, sempre che non fossi stanca. Avevo desiderio di stare da sola con lui. Già mi mancava l'uomo conosciuto in Italia, la stessa persona che ora mi risultava quasi lontana. Loro lo compresero e ci augurarono buona passeggiata. Avremmo dovuto tornare presto perché l'indomani le cerimonie per i giovani soldati caduti in servizio si sarebbero svolte di primo mattino. La strada declinava leggermente, costeggiando il mare. Arrivammo alla zona dei negozi e lì iniziai a sgomentare. Le vetrine erano così semplici e così poco curate. Presentavano vestiti che nessuno di noi avrebbe mai indossato. Chemisie a fiori bianchi su fondo scuro, gonne marroni, nere, camicie bianche senza fronzoli, tutto rigorosamente sintetico. Ai negozi chiusi si alternavano bar con tavolini all'esterno, come quelli che si trovano nelle località di mare. Da questi provenivano a onde parole francesi, inglesi e tedesche. Incontrammo poche persone del posto. La popolazione notturna era costituita da turisti e uomini, vestiti soprattutto con pantaloni neri e camicia bianca, spesso con la kippah in testa. Qua e là qualche giovane in bermuda, t-shirt, sandali o ciabatte infradito. Dai takeaway di falafel e shawarma uscivano profumi acri di coriandolo e curcuma, di aglio, di montone. Ti coglievano a tradimento, lasciandoti la convinzione che ti si sarebbero attaccati ai vestiti e ai capelli, come l'umidità. Arrivammo infine alla Piazza dell'Indipendenza, con la sua fontana circolare e i suoi zampilli dai mille colori. Lui lì si fermò in silenzio e poi mi disse che domani sarebbe stato un giorno pesante, per il fisico e per l'anima. Capì che era meglio tornare, ma prima di girarmi guardai il mare e il suo orizzonte, che era ancora roseo nella notte scura. Sorrisi incantata a quel tramonto sconosciuto. Mai e poi mai avrei immaginato che quella, un anno dopo, sarebbe diventata casa mia. Tre 4 9 2 3 8 6 6 6 6, mi scrive qualcuno che non si firma, Mac. Boh. Mia moglie è estone e la prima volta che sono stato lì nel suo quartiere mi sembrava cronache del dopobomba. poi intorno tanto tanto verde. 349-238-6666, qualcuno mi scrive e lo ringrazio per darmi l'informazione: mia moglie è ex cecoslovacca, ora cieca. Punto. Però no, non mi dice com'è andata, com'è la Cecoslovacchia. Vabbè, insomma, se hai voglia di raccontarmi com'è stato il primo approccio, è meglio, insomma, che semplicemente dirmi che tua moglie è cieca, che è sicuramente interessante, però non è così esaustivo. 349-238-6666, tutto perché Carla, un bel po' di anni fa, verso la fine degli anni 80, per la prima volta andava con la persona che amava, andava in Israele. Pronto, Carla? Sì, pronto, Matteo, ciao. Ciao, buongiorno, come stai? Benissimo, grazie. Grazie a te per averci mandato questa storia. Senti, io sono molto curioso riguardo in generale, riguardo a quelle terre, a Israele, che mi sembra ancora più particolare e suggestiva, perché proprio come un bambino di 6 anni immaginarmi che quella terra è stata piantata lì 70 anni fa e che ci sono persone, come immagino i genitori della persona, sì, che era con te all'epoca, che arrivavano da altri paesi, no? Per lo più dall'est Europa. Esattamente. E allora, si abituavano a vivere in un posto che era totalmente diverso da dove abitavano prima. Sì, sì, ma tieni in considerazione che erano supportati da un grosso ideale, quindi erano dei veri e propri pionieri. Ci sono delle persone che hanno supportato delle difficoltà incredibili, ma senza nessuna fatica, mi raccontavano. L'ideale è stato un motore, un carburante eccezionale per questa costruzione, per questa per la fondazione di questo paese, creazione di questo paese, sì. Senti Carla, tu nel racconto chiudi dicendo: non sapevi che quella sarebbe diventata casa mia. Esatto. Per quanto lo è stato poi? Per quasi un anno. Quindi hai vissuto là quasi un anno. Io ho abitato lì per quasi un anno, ma considerarla casa mia, io la considero tuttora la mia seconda casa. Ci sei tornata poi dopo quell'anno? Sì, ci sono tornata, sì, parecchie volte. Senti, e che cosa facevi in quell'anno? Come vivevi? Avevi un lavoro? Allora, appena arrivata io mi sono iscritta a una scuola di lingue, perché quando mi sono trasferita lì il progetto era di rimanerci a vivere. Sì. Mai e poi mai avremmo immaginato di ritornare in Italia. E quindi niente, ho fatto la scuola, ho frequentato questa scuola di lingue. Quindi tu parli ebraico tuttora? Sì, adesso me lo ricordo pochissimo. Beh, però insomma l'avevi imparato bene. Sì, sì, sì, lo parlavo bene, sì, sì, sì. E finita la scuola mi sono lanciata a cercarmi un lavoro subito, perché volevo essere indipendente. E per pura fortuna ho scoperto vicino a casa una scuola di lingue che stava proprio in quel momento aprendo. Mi sono presentata con grande faccia tosta e ho detto: io sono italiana, parlo ebraico, insomma, come lei sente, parlo inglese, parlo tedesco, parlo altre lingue, ma se lei... questa signora mi ha detto: ma io la prendo subito, signora. Chi è che era interessato a imparare l'italiano in Israele a fine degli anni 80? Quasi esclusivamente dirigenti di industria, attaché culturali, diplomatici, quindi, o anche chiaramente persone che erano interessate alla cultura, semplicemente. Certo. Senti, invece, scusami Carla, una curiosità, come dire, al contrario, nel senso che alla fine degli anni 80 non era così usuale che una ragazza italiana incontrasse innanzitutto, ma andasse a vivere per un anno in Israele. I tuoi amici, i tuoi parenti, come la vivevano? Allora, i miei parenti, i miei amici ne erano entusiasti. La cosa faceva molto stravagante, ma non è tanto la reazione dei miei amici che mi ha lasciato un po' perplessa, ma proprio l'idea che se ne facevano le persone, per esempio i miei compagni di classe in Israele. Quando io sono arrivata in Israele, sì, praticamente c'era la primissima Aliyah russa, cioè la prima immigrazione dei russi, degli ebrei russi. Sì. E quindi io nella mia classe avevo praticamente il 70% era costituito da queste persone, sì, e da questi signori russi di tutte le età, anche anziani, e poi da altre persone che avevano deciso di venire ad abitare in Israele. E l'italiana che veniva ad abitare in Israele veniva guardata veramente un po'. Eri lui perché eri l'unica di fatto. Sì, ero l'unica. Senti Carla, purtroppo io devo, ma figurati, devo salutarti, però quando è che sei tornata l'ultima volta e poi chiudo, e che sensazioni avevi? Ti è spiaciuto? L'ultima volta sono tornata 4-5 anni fa, 4 anni fa, e la sensazione è stata di tornare a casa. Carla, ti ringrazio moltissimo per la tua storia e per la chiacchierata. Ti auguro buona fortuna per tutto. Ringrazio te, gli ascoltatori. Ciao, ciao Carla, grazie mille. Ciao, ciao. Sto insieme a una ragazza liberiana da 17 anni. Le mie visite in Africa sono tra le esperienze più belle della mia vita e mi hanno reso Africa dipendente. Sebastian da Vernio, provincia di Prato. Guarda diritto nell'obiettivo, Carla, nella foto che ci ha mandato, che trovate sulla pagina di Voi Siete Qui, sul sito di Radio 24, dove trovate anche la mappa, dove trovate tutto quello che seguiamo su Twitter, Facebook, trovate tutto, e soprattutto trovate l'archivio con i podcast, con tutte le puntate del nostro programma, che voi potete ascoltare online o scaricarvele sul vostro lettore MP3. Ho detto lettore MP3. Credo siano anni che nessuno dice lettore MP3. Ha una bella faccia decisa, Carla. Ha i capelli corti biondi e gli occhiali, degli occhiali di quelli che sono un po' da professoressa, perché hanno le lenti scure, le lenti, perdonatemi, la montatura scura sotto e chiara sopra. Alle spalle c'è una camera da letto sfatta, direi, perché c'è un letto tutto sfatto, dei poster alle pareti, uno dei quali raffigura, non so perché, dei pappagalli. Radice, sostantivo femminile. Nelle piante superiori, organo di solito infisso nel terreno che, oltre a sostenere la pianta, assorbe acqua e sali minerali. Estensivo, la parte più bassa di una montagna o di un rilievo montuoso. In anatomia, elemento che conferisce fissità a un organo. Di persone, stabilirsi in un luogo con l'intenzione di non andarsene più. In matematica, radice ennesima di un numero. Il numero che, elevato all'ennesima potenza, dà il numero dato. Etimo, latino, radicem. O radicem. 349-238-6666, si parla di radici, come avete sentito anche dal dizionario di Voi Siete Qui, che ogni giorno è online sul profilo Facebook del programma, che Voi Siete Qui. E tra l'altro, oltre alla definizione che avete appena sentito e che carichiamo sul profilo, no, che è quella di radici, qualcuno si diletta a provare a darne altre. Sì, più che definizioni sono esercizi di stile sul significato. Le radici a volte ci tirano giù, spettano a imparare a tirarci su. Roberta, scusami, sembra più una questione di dolci quella che ci hai scritto. Le radici prescindono dai luoghi, scrive Stella, sono la nostra natura e ogni volta che ce ne allontaniamo affiora un senso di smarrimento. 349-238-6666. Mia moglie è ugandese, era una clandestina, ora fa la volontaria della protezione civile. In Uganda ti dicono grazie per essere venuto nel mio paese. Abbiamo una figlia e abbiamo tutti e tre un colore di pelle diverso. Ciao Gianluca. Qualcun altro mi scrive: anche mia moglie è ebrea, solo che lei è venuta a vivere in Italia. E visto che si parlava di Israele e di ebraismo, nella mia scarsissima fantasia, quando ci penso, la prima cosa che mi viene in mente è Woody Allen, con i suoi infiniti film. Lui non parla moltissimo di radici, non parla moltissimo di madri, padri, però, anche se parla moltissimo intrinsecamente della cultura ebraica, però c'è un libro molto interessante che si chiama Conversazioni su di me e tutto il resto, scritto da un giornalista, però seguendo le conversazioni con Woody Allen, in cui lui parla del padre, ne parla pochissimo, ma del padre e delle sue radici dice questo. Ho sempre avuto un rapporto con mio padre migliore, nel senso più amichevole rispetto a quello con mia madre. Mia madre era fissata con la disciplina ed era quella che si occupava di portare avanti la baracca. Con mio padre potevo parlare di baseball, di gangster, di tutti gli argomenti che mi interessavano. Ma non mi disse mai che lavorava come allibratore. Non c'era da vantarsene all'epoca. Lui lavorava per gli allibratori e doveva passare tutte le estati a Saratoga, all'ippodromo, per raccogliere e pagare le scommesse. A mio padre piaceva un sacco, perché, sai, guadagnava una diaria più le mance, per non parlare del fatto che era un lavoro divertente. Finché un giorno suo padre gli spiegò che sarebbe finito male se avesse continuato su quella strada. Questo però lo sappì molto dopo. Però mio padre in genere ha avuto una vita molto interessante. A 16 anni aveva abbandonato la scuola per arruolarsi in marina e in Europa ebbe l'occasione di conoscere il mondo. Andò in Russia, andò in tutta Europa. Assistette all'esecuzione di condanne a morte. Poi la sua nave fu colpita da una bomba al largo delle coste della Florida, credo. E l'equipaggio fu costretto a raggiungere la terraferma a nuoto. Ce la fecero in tre. E uno di questi era mio padre. All'epoca fu una storia che finì sui giornali. Era un asso del mini bowling, tanto che una volta affrontò il campione dello stato di New York. Era anche un bravo giocatore di biliardo. Molti anni dopo giocai una partita con lui. Era molto più bravo di me. Aveva fatto persino la mascotte per i Brooklyn Dodgers. Era cresciuto in anni in cui Brooklyn era tutto terreno agricolo. Alla fine della Prima Guerra Mondiale. All'epoca suo padre gli regalò questa automobile favolosa con la quale girò tutta l'Europa. Era un personaggio colorito da quel punto di vista, mio nonno. Pare che fosse una persona colta, intelligente, che aveva l'abbonamento per l'opera e che era capace di sorbirsi una traversata atlantica per andare in un ippodromo europeo. Solo che poi arrivò la Grande Depressione, che lo mise sul lastrico. Possedeva molti cinema, mio nonno, compreso il Midwood Theater a Brooklyn, e li perse tutti. Fu allora che la mia famiglia divenne povera in canna. Abbiamo recuperato il messaggio di quello che aveva la moglie ceca, che è Giovanni, che dice: nell'86 in Cecoslovacchia c'era il comunismo e c'era l'essenziale, ti offrivano quello che avevano, ricordo l'odore di carbone nell'aria e lasciare le scarpe fuori dalla porta, usanza questa che si usa ancora. E poi Omar, e chiudo con oggi: 4 anni fidanzamento con una ragazza rumena, lei di famiglia benestante, figlia di un direttore di banca, viveva in un appartamento in centro a Milano, io ragazzo di periferia, mai andato in Romania, ma ho conosciuto i suoi e la loro casa, loro usi e costumi, persone umili, la casa molto semplice, sapeva di spezie e di bollito. Per animale domestico, una gallina che razzolava liberamente all'interno dell'appartamento. Grazie a lui, grazie a Paolino Corleone, a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. Grazie soprattutto a Carla. La storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Ciao, mi chiamo Oscar e vengo da Treviso. La storia di domani parla del momento in cui mia figlia Agnese si addormenta o prova ad addormentarsi. Questa è la mia storia e io sono qui.